perché non vuol, non, mangiare bene non vuol dire mangiare male. Quindi aglio senza, senza l'anima praticamente. Dobbiamo farmi mancare il nutraceutico. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Se rinasco, rinasco cipolla, perché mi, mi sembra che sia perfetta. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato. Gelato al cioccolato. Voglia di dolce o di salato? Cioccolato e cannoli alla crema sono al primo posto nella classifica dei vostri piaceri alimentari, oppure a farvi venire l'acquolina in bocca sono un panino col salame o una pizza? E come le vostre preferenze condizionano la vostra dieta? Ne parliamo oggi insieme al dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano, autore di numerosi libri, di cui l'ultimo Come una pentola a pressione, di cui mi ha portato proprio qua una copia e che arriverà ad uno di voi, non sappiamo in che modo, ma lo troviamo, ma lo troviamo. Troveremo. Intanto dottor Speciani, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. È interessante questa condizione. Poi preferenze o abitudini, e ci pensiamo durante la trasmissione. Dolce o salato lei? Io sono un saporito, perché lei è perfetto. Assolutamente perfetto secondo il mio stile, e tendenzialmente più salato. Questo proprio perché per tradizione e storia il dolce nella mia famiglia crea malattie severe. Vengono dalla famiglia obesa, malata, eccetera, tutto quanto, quindi imparare a gustarlo solo in alcuni momenti e non farlo diventare un'abitudine. Quindi questo vuol dire che i condizionamenti familiari educano nel... Assolutamente sì, direi che quando ci sono, io incontro famiglie intere in cui ti rendi conto che il tipo di assunzione di un cibo è in realtà solo legato all'abitudine storica. Certo. E che la gente impara da babbo, mamma, quando trovi bambini che non mangiano le verdure, c'è sempre un genitore che non dice, le mangia. Ah no, perché fa male. 800 24 00 24. Le preferenze si vedono già al mattino. C'è chi sceglie la colazione salata, chi quella dolce. Non abbiamo ipotizzato chi la colazione non la fa. Vogliamo farli fare colazione perché è il pasto più importante della giornata. E chi non la fa non può telefonarci. No, assolutamente. Io direi che questo non gli facciamo telefonare. La colazione è il pasto fondamentale, è il momento in cui, dal punto di vista dell'evoluzione, e poi discutendo di dolce e salato capiremo quanto l'evoluzione conta, e la prima colazione è il messaggio più forte di consumo di energia. Quindi vuol dire che facendo una ricca prima colazione si dimagrisce, che oggi viene bene come viene tipo di assolutamente stimolo, bene. Dolce o salata, ogni scelta ha i suoi vantaggi e i suoi limiti. Proveremo a metterli sulla bilancia, e intanto invitiamo a nostri ascoltatori a raccontarci il menù della loro colazione, che come dicevamo è proprio il primo pasto, quello che ci dà l'energia giusta per affrontare la giornata, evita di farci fare abbuffate all'ora di pranzo e soprattutto, come sottolineava il dottor Speciani, ci aiuta a dimagrire. Dottor Speciani, quindi come iniziate la giornata? Colazione dolce, colazione salata, all'800 24 00 24, e nel corso della trasmissione cercheremo anche di capire come spiegare quella voglia di dolce o quella voglia di salato, e anche quantificare se la nostra dieta è eccessivamente dolce o eccessivamente salata. Incito i lettori sul fatto che se ci telefonano dicendo i 3-4 cibi, alimenti che rappresentano la loro prima colazione, ovviamente avremo una dominanza di salato, di dolce nella percezione comune. In realtà spesso lo zucchero è nascosto dove non ci aspettiamo, il sale è nascosto dove non ci aspettiamo. Quindi se ci telefonano dicendo cosa sta mangiando e secondo loro se c'è una dominanza di sale o di zucchero, poi potremo dare il libro alla persona che meglio si avvicina a questo tipo di scelta. Chi di solito sceglie il salato inizia con uovo, prosciutto, Direi che ne abbiamo diverse. Abbiamo intanto il salato, è pane, focacce, prosciutto, omelette, formaggio, uovo. Stamattina ho visto sul Corriere che veniva citato, io ne parlo da tanti anni, ma mi fa piacere che ogni tanto qualcosa venga ripreso. Il formaggio a colazione. Beh, basta andare in un paese nordico per rendersi conto che il salato, dal salmone al pesce, alle varie possibilità, è sicuramente presente. Per chi ama il dolce, cornetti, marmellata, biscotti, pane integrale. Miele, zuccheri, torte, creme, ce n'è. Chi mixa, ad esempio, la focaccia col caffè latte è un classico, col cappuccio è un classico in Liguria. Pensiamo ad esempio che una cosa di questo tipo, che porta ad un eccesso di sale, un eccesso di carboidrati, sicuramente, se fosse semplicemente miscelata con una focaccia integrale e con alcune proteine interne, fossero anche solo giusto qualche noce, mandorla simile, se non un po' di prosciutto, già avremmo un bilanciamento buono e che potrebbe diventare salutare. Dottor Speciani, nel corso della giornata però ci sono persone che sentono proprio il bisogno di dolce, altre invece che sgranocchiano volentieri qualcosa di salato. Cercheremo di capire cosa raccontano queste preferenze, perché si potrebbe liquidare la cosa dicendo beh, solo gola, no? Infatti spesso, se non riusciamo a soddisfare quella richiesta, quella voglia, se invece di un pacchetto di cracker ci viene proposto uno yogurt, uno dice no, allora guarda, no, non mi va. Allora, forse però la richiesta di cibi dolci o di cibi salati può essere un segnale che il nostro organismo ci manda e che potrebbe essere utile, almeno oggi, imparare ad ascoltare e a capire che cosa segnala. Dottor Speciani, forse degli squilibri nella nostra dieta? Diciamo che abbiamo bisogno d'affetto? Sì, questo in molti casi è possibile, è documentato ad esempio che l'assunzione di qualche cosa di dolce riduce l'ansia immediatamente, è proprio un effetto rapido, documentato e preciso, con un controeffetto secondario che la fa rivenire ancora più forte dopo 15 minuti, quindi è in realtà una soluzione temporanea, però è vero che a volte noi ci accontentiamo, come dire, dell'uovo oggi e quindi quel momento di rilassamento, di apparente riduzione della tensione che ci sentiamo addosso ci fa del bene. È vero che molte delle nostre preferenze alimentari o delle nostre ricerche alimentari possono anche derivare da un effettivo bisogno. Persone che ad esempio oggi siamo in una condizione di calura e c'è una ricerca spontanea di alcuni cibi che sono naturalmente ricchi di sale, pensiamo a prodotti tipo la caprese, prosciutto e melone, no? Quindi abbiamo dentro. Anche perché non ci fanno stare in cucina. Questo è più comodo, senza ombra di dubbio, di fronte ai fornelli. La necessità. Però è una ricerca dei cibi che hanno dentro del sale presente, che quindi tendono magari ad aumentare sia di sodio dentro, ad esempio, al prosciutto, dentro alla mozzarella, piuttosto che altro, sia di sale di potassio dentro al pomodoro, dentro al melone e così via. Quindi c'è una ricerca a volte di salato legato proprio al fatto che uno magari abbia la pressione un po' bassa o ci siano situazioni del genere. Come a volte la ricerca, ecco, io qui sul dolce sono un po' più critico, però, perché è proprio legato alla parte emotiva, emozionale, non tanto dei bisogni veri e reali, perché noi il bisogno del dolce in quanto tale l'abbiamo dal punto di vista dell'evoluzione in modo un po' distorto. Non c'era il dolce quando eravamo piccoli, parlo di un milione di anni fa, e quindi è un'abitudine che abbiamo creato nel corso del tempo, creiamo delle dipendenze da dolce e sono più queste legate non tanto dei bisogni assoluti, se non quelli immediati, tipo alla fine di una maratona, alla fine di uno sforzo fisico grande, i bisogni di dolce sono molto più di tipo emotivo. Intanto Sergio al 349-238-6666 ci ha mandato la sua colazione: noci, mandorle, nocciole, goji, yogurt parzialmente scremato, fiocchi d'avena, un frutto. Come vado? Il dottor Speciani ha chiesto a noi di elencare 4-5 ingredienti della nostra colazione e dirci se ritengono che sia una colazione più dolce o più salata, perché a volte ci sono delle sorprese. Tornando al nostro Sergio, che ci fa i complimenti, quindi è fantastico, bravo. Noci, mandorle, nocciole, bacche di goji, lo yogurt, i fiocchi d'avena e un frutto. Come vado? Io so già che cosa direbbe lei, ma è lei il dottor? Io sono il dottore, quindi dico, intanto mi chiamano dottor Mandorla ogni tanto, quindi va bene, anche dottor Noce. E quindi quando ci sono fonti di proteine vegetali sensoriali positive come quelle delle mandorle, delle noci, io alzo bandierine positive e faccio applausi. Mi sembra una colazione, non mi sembra, una colazione molto ben bilanciata, perché contiene sia cereali, che in realtà sono carboidrati a lento assorbimento. Spero che il nostro Sergio non zuccheri lo yogurt, perché significherebbe portare qualcosa di potenzialmente negativo, perché lo yogurt ha dentro già uno zucchero naturale. Quindi io la trovo bellissima, è una ottima colazione ben bilanciata, già solo perché ha una colazione di questo tipo e quindi possiamo usarla come esempio per tutti. Direi che potremmo quasi premiarlo in modo positivo. Diamo parte subito al libro. Sì, piuttosto ne troviamo un altro. Dai, allora così lo segnaliamo e Sergio riceverà il libro del dottor Speciani. Ma se Sergio e tante le persone che ci ascoltano invece zuccherassero lo yogurt, aggiungessero lo zucchero al caffè, al tè, non si sentano in colpa? Perché noi oggi, facessero altrettanto con il sale, ci sono persone che ancora prima di assaggiare un piatto mettono qualche pizzico, perché oggi troveremo delle strategie per diminuire queste pizziche, queste aggiunte, senza rinunciare al gusto, anzi riscoprendolo. E c'è un termine, vero? C'è un lasso di tempo che permette alle persone di disabituarsi a questi, all'aggiunta di questi pizzichi, e gradatamente recuperare il piacere del gusto e trovare tutte le sfumature. È un tempo che è compreso fra i 7 e i 15 giorni, mediamente una decina di giorni, in cui uno perde questa specie di ottundimento dato dall'eccesso di zucchero o dall'eccesso di sale e inizia a sentire sapori che sono fantastici, come i colori, belli. È il gran giorno di Kimmy. L'attenzione deve essere concentrata su Kimmy. Giulio! La cara, tenera, adorabile, Kimmy dolce come il miele. Le sue precise parole. Dolce e salato, due aggettivi che noi associamo automaticamente al cibo, ma che invece oggi, con l'aiuto del dottor Aquilar, psicologo cognitivo, psicoterapeuta cognitivo, buongiorno dottor Aquilar. No, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Useremo per descrivere noi stessi, siamo tipi dolci, siamo tipi salati, dottor Aquilar. Possiamo cominciare a tentare di autovalutarci, senz'altro. Naturalmente, come sempre in psicologia e in psicoterapia, l'autovalutazione è soltanto una delle componenti. Ci può essere una persona che è salatissima e che invece ritiene di essere super dolce, e a volte viene smentita dai fatti e dalle relazioni. Però la prima domanda che potremmo porre ai nostri ascoltatori è se loro si ritengono persone prevalentemente dolci o prevalentemente salate, ma anche se nella vita di coppia preferiscono avere un partner dolce o un partner salato, e se il partner è uguale a loro preferibilmente, o gli opposti si attraggono, vogliono un partner completamente diverso da sé. Potremmo partire da questa osservazione un po' giocosa per poi dire qualcosa sulla scelta del partner e sull'armonia tra dolce e salato nella vita di tutti dal punto di vista psicologico. Si possono considerare persone dolci le persone che, dottor Aquilar? Ma sono morbide, accoglienti. Sono morbide, accoglienti, cooperative piuttosto che competitive. Sì. Tendono a non essere particolarmente autocentrate, cioè a dire sempre io, e tendono a sintonizzarsi prevalentemente sui bisogni dell'altro, esprimendo le proprie emozioni in maniera morbida e contenuta. Beh, con questa descrizione tutti diranno io sono dolce. Ma assolutamente, qualche conflitto però nasce, perché poi secondo me quelli molto dolci poi sono anche un po' introversi in realtà, in alcuni non sono così convinto che ci sia questa situazione di disponibilità all'altro, perché vedo che spesso i dolci poi sono gente che cerca mangiarseli un po' in solitudine, un parere mi piacerebbe sentire dal collega. I dolci cercano di essere in questo modo, e per alcune persone invece sono percepiti come leggermente noiosi, come statici, come monotoni, come poco stimolanti, mentre invece quelli che si definiscono salati in genere preferiscono una maggiore aggressività anche umoristica nelle situazioni, preferiscono la competizione rispetto alla cooperazione, anche se è una competizione giocosa, stanno sempre a competere con qualcuno per qualche cosa. E preferiscono una risposta leggermente più piccante, più forte nelle conversazioni, con emozioni più forti, meno limitate e più varie, quindi che vanno anche con la legittimità dell'espressione della rabbia, della tristezza, del dolore, anziché questa morbidezza che appare ai salati come la musica con un filtro, senza le punte in alto o in basso. E credo che anche intuitivamente i nostri ascoltatori potranno autodefinirsi come dolci o come salati, e poi se preferiscono uno come loro o uno che sia il loro opposto. Quindi per voi chi si somiglia si piglia o gli opposti si attraggono? Dopo aver definito da che parte state, intanto già un ascoltatore ci scrive che vuole una compagna al pepe ma non la trova. 800 24 00 24, grazie al dottor Aquilar che tornerà con noi a partire dalle 11.45 per rispondere alle vostre domande, per commentare i vostri profili. E a proposito di coppie, a partire dalle 12 parleremo di coppie e in particolare di quelle che scoppiano sempre più spesso per colpa di internet. Per questo in America sono già molto utilizzati gli accordi prematrimoniali che riguardano proprio il comportamento sui social. In Italia ancora non ci sono, ma forse, dico forse, l'esigenza si sente anche qui. Allora raccontateci se anche voi li vorreste sottoscrivere, come la pensate. Ma torniamo a noi, dottor Speciani. Torniamo a parlare di dolce e salato. Le nostre preferenze, l'abbiamo detto, impattano sulla nostra salute perché condizionano le nostre scelte, dato che purtroppo non sempre quello che ci piace ci fa bene. Oggi lei ci aiuterà a educare il nostro gusto verso i cibi giusti. Sembra quasi un bisticcio di parole. Bello. E allora le piace. Sì, piace. Lo so. Alessandro, buongiorno da Roma e poi subito dopo Filippo dalla provincia di Napoli. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta. Bella trasmissione, veramente interessante. Allora, le dico subito, la mia colazione è neutra, non è né dolce né salata, perché non si fa, il problema è sempre stare nell'equilibrio, no? Perché e quindi faccio yogurt magro, completamente magro, crusca d'avena, assolutamente banditi gli zuccheri, proprio perché mi fanno male, vedo proprio che ho dei cali terribili dopo aver mangiato gli zuccheri. Ecco, vede, racconta proprio quello che dice il dottor Speciani, ci tirano su. È una questione d'abitudine, infatti, perché come la vecchia cattiva educazione alimentare classica, che dicono che si fa la dieta mediterranea, ma non è affatto così. La dieta mediterranea non ha tutti quei carboidrati e quegli zuccheri. All'inizio facevo cappuccino e cornetto, ma stando sempre male e con cali e con fame terribile verso le 11 del mattino, cambiai radicalmente alimentazione, misi la frutta secca, noci, nocciole, assieme alla crusca d'avena, e l'unico, diciamo, carboidrato concesso è il pane di segale, ma solo di farina di segale, assieme a chiare d'uovo, 4 chiare d'uovo e 2 rossi. E sto benissimo, lo posso tirare anche fino alle 2 del pomeriggio senza alcuna fame. Alessandro, dal punto di vista psicologico, relazionale, lei è un dolce o un salato? Ha sentito i profili descritti dal dottor Aquilar? Molto, molto stabile, e sto nella metà proprio, non mi posso definire né dall'una né dall'altra parte, perché con un'alimentazione giusta si sta in equilibrio, quindi non si va grazie, mi ha dato un assist magnifico, perché lei ha scritto anche un libro sulla relazione, no? Tra emozioni, tra quello che mangiamo e le emozioni, certo, che sviluppiamo, quindi per questo abbiamo intrecciato il dottor Speciani al dottor Aquilar, perché spesso quello che mangiamo produce anche degli effetti su come noi ci comportiamo. Assolutamente, direi che l'aspetto legato alla depressione o all'ansia legato a quello che si mangia è importante, ed è bello quello che ha detto Alessandro in questo momento, perché effettivamente un bilanciamento tra carboidrati e proteine, come lui ha presentato, gli consente una stabilità, diciamo che quella neutralità che ha definito non è essere sciapo ma essere stabile, quindi essere capace poi di stare con i dolci salati. E allora noi andiamo subito a sentire i mercati e ritorniamo subito dopo insieme a 800 24 00 24, dolce e salato a partire dalla colazione e a finire nella coppia. Cuore e denari. Fatto la pizza, cavo un mare. Eccoci qui, siamo tornati. Dolce o salato? Che cosa vi appaga di più? Di che cosa sentite il bisogno? 800 24 00 24. Abbiamo iniziato a chiedervi che tipo di colazione fate, perché le preferenze nascono subito al mattino, ma vogliamo anche aggiungere un'altra domanda: ci sono dei momenti della giornata particolari in cui vi viene voglia di zucchero o vi viene voglia di dolci, vi viene voglia di salato, di qualche focaccia, cracker, qualcosa che stuzzica un po' il vostro appetito, un pezzetto di formaggio, un pezzetto di formaggio stagionato? Dottora Speciani, molte persone non hanno però la percezione di avere una dieta troppo dolce o troppo salata. Si può comunque andare a fare un pochino, a misurarla attraverso ad esempio degli esami del sangue, ma non solo. Quindi noi oggi daremo anche queste due indicazioni: un autoesame, possiamo farlo anche certo, seguendo le indicazioni del dottor Speciani, oppure affidarci al medico che attraverso gli esami del sangue riesce un po' a segnalare eventuali eccessi e quindi ci aiuta ad aggiustare un po' il tiro. Ma ci sono due elementi, perché per fortuna devo dire gli esami del sangue si alterano in maniera forte, importante, solo quando si superano molti eccessi. Però è vero che ci sono degli elementi che ci aiutano a comprendere, ad esempio quando si fanno gli elettroliti del sangue nelle persone che spesso hanno magari la pressione un pochettino più elevata o tendono ogni tanto ad avere qualche misurazione che sballa un po', si trovano sodio e cloro, che sono effettivamente gli elettroliti che sono correlati col sale da cucina, il sale fondamentalmente, e questi che tendono verso i valori massimi. Già questo ci può aiutare a capire che forse stiamo un po' esagerando. E, per lo zucchero? Lo zucchero abbiamo i livelli di glicemia, e qui c'è un'ampia discussione, perché in realtà io, che vengo da una famiglia di diabetici, fondamentalmente quando ho visto che avevo 93 di glicemia, ho detto no, sarà bene che io stia basso, perché ognuno deve capire anche qual è la sua radice, quali sono i suoi geni, i suoi cromosomi. Ricordiamo qual è il valore. Normalmente viene detto che uno non inizia a pensare al diabete fino a 110, però 110 come valore in realtà è un valore già elevato, nel senso che chi si muove su valori di questo genere, se ha 75 anni è accettabile, se è un giovane, se ne ha 28 o 40, è bene che faccia un'attenta analisi, faccia un esame di coscienza, perché è sicuramente slivellato rispetto ai valori corretti che potrebbero essere utilizzati. Quindi è un dato. Io però credo che le cose più importanti siano due autoesami che possiamo fare tutti, no? Uno, il gonfiore. Prima è stata citato la focaccia ligure al mattino con pucciata nel caffè, che peraltro ho fatto anch'io, che è buonissima, però è un grosso contenuto di sale, perché la focaccia possiamo permetterci, sì perché assolutamente noi vogliamo mangiare bene e poi trasgredire con piacere. Io sono un teorico della trasgressione, se non è sistematica, quindi assolutamente, quindi tutti i cibi sono buoni. Anzi, possiamo come indicazione tenerci magari due giorni alla settimana, una sera, la sera del mercoledì, e la domenica libera. Io normalmente nelle diete in cui lavoro sull'infiammazione da cibo lascio spazio proprio a un giorno infrasettimanale, il mercoledì di solito, e poi al weekend, che sia un weekend di rilassamento in cui uno può gioire della compagnia, delle persone, del cibo in maniera positiva. Ci sono cibi buonissimi, sani, anche se sono un po' più pasticciati e elaborati. Abbiamo una cucina che stiamo cercando di insegnare al mondo, anzi la stiamo insegnando al mondo, quindi è bene non mortifichiamo. No, assolutamente. Cerchiamo di capire, ma lei l'ho interrotto sulla focaccia e cappuccio, ricordi di adolescenza. Allora il ricordo, perché io sono un po' vecchietto, è Gilberto Govi che recita le sue commedie in genovese, ce lo ricordiamo, cioè questi occhi tutti gonfi con il sott'occhio, con le borse piene, perché effettivamente probabilmente mangiava troppo focaccia. No, scherzo come battuta, però è un'immagine di riferimento, perché spesso l'eccesso di sale gonfia effettivamente le parti molli, no? Per cui i sott'occhi, le borse sotto gli occhi, le caviglie, ed ecco che una tecnica può essere di provare a comprimersi sopra la tibia, quindi sulla gamba, e quando a volte si lascia il dito che lascia il buchino sopra la tibia, che è una zona che dovrebbe essere magra, uno deve fare una riflessione sul proprio sale. E invece per lo zucchero, il fatto di di mangiare, di avere fame, ad esempio durante il giorno, come alcuni dei nostri ascoltatori ci hanno scritto, è un segnale che probabilmente stiamo usando malamente lo zucchero, cioè stiamo usando dei carboidrati a veloce assorbimento, quindi zuccheri, eccetera, che aumentano velocemente la glicemia e ti fanno venire fame dopo un po', nonostante tu abbia già mangiato calorie a sufficienza. Erminio ci scrive da Bergamo che mangia le arachidi tostate e i popcorn, ma li mangia soprattutto per il sale e ci rimane male se sono poco salati. Quindi è proprio un po' come le capre, no? Che cercano il sale. E c'è un bisogno. Erminio di Bergamo, dobbiamo fare una riflessione. C'è purtroppo un incremento progressivo del contenuto di sale e ci sono studi molto molto importanti sul fatto che ritornare, al di là del fatto che il gusto, ci sono anche popcorn non salati, ci sono le arachidi non salate. È vero, come dicevamo prima e come Nicoletta ha suggerito, ci sono circa 9-10 giorni di tempo per riabituarsi ai gusti e dei gusti positivi. Ad esempio suggerisco, perché è un'esperienza fattibile, io amo moltissimo mangiare i diversi tipi di semi oleosi, quindi dalla macadamia all'arachide al cashew piuttosto che alla nocciola, alla mandorla, e se sono tutti salati sembrano che sappiano tutti dello stesso sapore, cioè il sale. Allora è un elemento importante, quindi teniamolo presente magari per una prossima evoluzione di Erminio nella sua vita. Filippo ci aspettava dalla provincia di Napoli e poi Antonio. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Io mi, come dire, mi confesso subito, nella percentuale dolce salato ho 80-20 a favore del dolce. Sì. E a proposito di confessioni, come dire, tanto non ci ascolta nessuno. io inizio e finisco male, nel senso che voi all'inizio del programma avevate detto non chiamate se non fate colazione. Io da bravo napoletano nella colazione prendo solo il caffè e so che inizio male, in effetti, perché solo il caffè. Ma vedi che noi vi abbiamo stimolato. Infatti, molti scrivono che non fanno colazione, noi li invitiamo naturalmente. Filippo. Sì, no, dicevo che sarà per la velocità, che poi bisogna uscire, bisogna correre. Allora, il caffè è vero che magari mi potrei ritagliare già prima mattina quei 5 minuti in più, quindi è una scusa al dire di non avere tempo, però è una base, c'è. E poi soprattutto vi avevo contattato perché l'errore più grossolano che commetto, a proposito di fascia oraria, quando uno ha bisogno di qualcosa, la sera prima di andare a letto, alla ricerca spasmodica di biscotti e cose di questo tipo. Questo è un classico, Filippo. Il pranzo e la cena non commetto altri errori, quindi fritture, cose di questo tipo sono veramente molto episodiche, quindi diciamo gli errori, giusto per riassumere, la colazione è molto solo con caffè, la sera che ho questa necessità di dolce. Diamo però una spiegazione che valga anche per tutti. Il fatto di avere una ricerca abbastanza forte, addirittura un po' compulsiva la sera, dei prodotti dolci, che di solito poi non fa neanche tanto bene alla linea nell'insieme, è proprio un elemento che deriva dal fatto che fin dal mattino abbiamo avuto una carenza di uno stimolo di ricchezza. Cioè fondamentalmente Filippo si è svegliato al mattino e, prendendo il caffè, è vero che ha una sferzata immediata, acuta, ma il suo organismo ha fame e dice: io ho fame. E cosa fa? Mantiene questo desiderio nascosto fino alla tarda sera, in cui a quel punto urla, si sfoga con cibi ricchi di energia. E una sola cosa, questo gliela dico con affetto, Filippo: provi a fare una colazione, inizi, perché la intensità e la ricchezza con cui potrà vivere parte della sua giornata, sia sul piano lavorativo, sul piano dell'attenzione e sul piano affettivo, è un'esperienza da provare. E poi si mangia una fetta di torta, se a lui piacciono le Napoli ci abbiamo una sfogliatella, abbiamo delle cose. Ma già solo per dire, io sono, l'ultima volta che sono passato da Napoli sono stato attirato lungo un via, non mi ricordo quale fosse, no, era una sfogliatella con la ricotta dentro, era buonissima, ed era e un poi misto. Come sono quelle ricce? Io prendo quella sfogliata, ecco. Quella, perché mi ispirava quella di più, quella colazione, perché a colazione tutte le calorie le bruciamo, ha dentro proteine e carboidrati ben bilanciati. Ci avrei messo meno zucchero per la mia idea. Vabbè, ma però, buonissima. Ma Filippo, lei ha veramente c'ha un Napoli patrimonio. A fianco, un patrimonio culturale. Antonio, ci faccia sapere, Filippo, domani si mangi una sfogliatella e pensi a noi. Antonio, anche buongiorno da Milano. Antonio può mangiarsi una fetta di panettone, ma ormai non si mangia il panettone. No, anche Davide Paolini lo suggerisce anche ad agosto. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. Eccoci qua, Antonio. Allora, io ho scoperto la cucina integrale in seguito a un'allergia e adesso ho rivoluzionato completamente la mia alimentazione. Comincio con dei semi oleosi, delle mandorle, delle noci, quello che ho, un po' di frutta secca, magari un uovo, addirittura un po' di riso integrale, e poi ho ridotto moltissimo quello che è il consumo sia di dolce che di salato, proprio il consumo di zucchero e di sale. E la mia vita è cambiata, devo dire. In quanto tempo, Antonio? Perché allora nasce da una no, ma in quanto tempo lei è riuscito poi ad avere i vantaggi di questo cambiamento? E quanto è stato duro? Allora, è stato duro, ma ho avuto una fortissima motivazione perché avevo un'allergia che mi ha veramente spaventato, una dermatite e asma, e sono andato avanti 4 anni con antistaminici e antiasmatici. È stato 15 giorni di cambiamento radicale, sì. Proprio. Poi ho imparato a cucinare buona la roba integrale, la roba naturale, che è completamente diversa dalla cucina solita. Sì. E nel giro di 2 mesi ho tolto l'antistaminico, di lì a poco ho tolto l'antiasmatico e sto nettamente meglio. E tra un mese e un mese. Un mese di tempo. Ormai sono 2 anni. Sì, ci vuole un mese di tempo. Presa la decisione, bisogna resistere per almeno una 15 giorni, operare dei cambiamenti, perché Antonio ha detto ho iniziato anche a cucinare in modo differente, certo. Antonio. La cosa più difficile è stata quella, imparare a cucinare bene le cose diverse, a farle buone. Però no, adesso non ci mancano però adesso insegnanti, internet ci aiuta, perché su internet ci si trovano tantissime ricette. A proposito di internet, parleremo proprio della rete. A partire dalle 12, chissà se in Italia, come sta succedendo in America, prenderanno piede i contratti prematrimoniali su internet. Di sicuro intanto possiamo dire che molte separazioni e divorzi sono causati proprio da un inconveniente legato al comportamento online dei coniugi o di uno dei due. Quindi su internet si trovano sì le ricette, si trovano gli amori, si trovano magari grandi amori, ma su internet anche le coppie si scoppiano. Cuore e denari. Vuoi caffè, per favore? Sì, subito. Che dolce visione, le mie preferite. Non dirlo a me. Sarà così terribile se ce ne dividiamo una. Scusi, potrei avere una di quelle belle ciambelle e un coltello? Ecco a lei. Chiunque sia stato ad inventarle era un vero genio. Dolce chiama dolce. C'è una nutrita schiera di medici che sostiene che lo zucchero crei dipendenza, ma si tratta di una dipendenza che può essere eliminata molto facilmente con dei piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane. Intanto suggerimenti per la colazione arrivano al 349-238-6666 da molti ascoltatori che ci suggeriscono, ad esempio come fa Cristina, di aggiungere anche un fiore in tavola per renderla ancora che più bello, piacevole. Sì, direi che è bellissimo. Dottor Speciani, chi vuole ridurre la quantità di zucchero, parliamo di zucchero aggiunto perché oggi non stiamo affrontando il capitolo di tutto lo zucchero nascosto e quindi vi rimandiamo a leggere con attenzione le etichette, sceglie, sostituisce lo zucchero con il dolcificante. È una buona idea? Quali dolcificanti? Ci sono dei rischi sui dolcificanti? Si è detto e si è scritto e si è letto di più e ancora oltre? Dottor Speciani, 2 indicazioni molto semplici per chi li sta usando, per orientarli e eventualmente. La prima la diamo in termini positivi. Mangiate dei dolci complessi che fate buoni a casa usando pure lo zucchero, il miele, la marmellata, tutto quello che possa essere e godetevi. Considerate una cosa drammatica la dolcificazione e adesso ci spieghiamo perché. Cioè il fatto di mettere il cucchiaino nel caffè, il cucchiaino di zucchero, che sia dolcificante o meno, lo diciamo tra poco, determina effettivamente questo tipo di dipendenza, perché lo zucchero da solo o il sapore dolce da solo, quindi anche quello del dolcificante ipocalorico, attiva un meccanismo, è un segnale potente che va a generare una risposta metabolica particolare. Cioè a quel punto, nel momento in cui noi a metà mattina prendiamo un caffè o o un tè o una bevanda dolcificata, una bibita gasata o quello che possa essere che contenga zucchero o dolcificanti anche ipocalorici, l'organismo dice: caspita, c'è zucchero! E si mette in moto un meccanismo atavico che fa recuperare e utilizzare nel pasto successivo un mucchio di calorie, cioè tiene alta l'insulina. Quindi fa in modo, come dire, per cui uno paradossalmente si trova ad usare come dolcificante ipocalorico qualcosa e poi nel pasto successivo il corpo è come se andasse a cercare di recuperare quello che non ha mangiato come quantità di dolce nel pasto precedente. Per cui sono elementi di rischio, quindi non entriamo nell'elemento del il dolcificante può essere tossico, sì, no, non lo so, ci sono un mucchio di lavori, polemiche, eccetera. Interveniamo solo sui segnali metabolici. Allora, l'indicazione è: iniziate a concedervi dei dolci, perché se uno parte dicendo elimino tutto si trova, come dire, staccato. Allora mangiamo dei dolci fatti in casa, buoni, con dentro tutto quello che serve, e iniziamo a ridurre pezzo per pezzo, granellino per granellino, cucchiaino per cucchiaino, togliamo, in modo da arrivare a gustare il cibo in maniera piena. Andiamo ad Angela, che è a Roma. Buongiorno. Pronto? Sì. Angela. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Grazie a lei. È da poco che vi ascolto e devo dire eccezionale. Allora io volevo appunto farvi, io mi alzo tardi veramente, ogni mattina alle 10:30, 11, perciò faccio la mia prima colazione verso appunto le 11, cioè 3 fette biscottate integrali e marmellata e una bella tazza di caffè latte. Poi verso le 4 mangio 65 grammi di pasta integrale con dell'insalata, verdure e un frutto, e poi verso le 8 soltanto appunto verdure o carne o pesce o formaggi light e un frutto. Però e come sta? Ecco, il mio dramma è 11:30, mezzanotte, ma non perché ho fame, tanto per fumarmi l'ultima sigaretta. Mi attacco al dolcino o al frutto se ce l'ho, insomma. Quella proprio una adesso proprio... l'estate aiuta, perché ecco, un'albicocca ci appaga quanto, se è buona, una pesca, 4-5 ciliegie ci appagano più di un biscottino. Sicuramente sì. Però, sa, l'inverno, l'anno è lungo, eh? Sì. Allora, dottor Speciani, prima di andare a parlare di coppie, di profili dolci e di profili salati con il dottor Aquilar, che è già pronto a commentare già vostre... Proprio velocissimo un'indicazione ad Angela, in realtà nella sua descrizione della giornata, brava, è stata sinteticissima, complimenti, in realtà non fa uso di proteine fino alla sera. Allora, questa cosa, c'è uscito proprio pochi giorni fa un articolo sul Journal of Nutrition, che noi su Eurosalus abbiamo ripreso, in cui si spiega chiaramente che se uno deve mangiare 50 o 70 o 90 grammi di proteine nel corso della giornata in relazione al suo peso, se li divide un terzo al mattino, un terzo pranzo, un terzo cena, sviluppa muscolo, migliora la sensibilità insulinica, così non le vengono più quelle fami di dolcetto serale, cara Angela, che questo è importante, e migliora e si dimagrisce. Se invece mantiene solo in una serata piuttosto che, quindi mantiene dei pasti un po' sbilanciati, il rischio di mettere su qualche etto o chilo in più purtroppo c'è. Vince, io mi uccido. No, no, no, non voglio pietà, no, non voglio compassione. Io mi uccido. Meglio un giorno da leone, vince. Meglio 100 giorni da pecora. Meglio un giorno da leone, no? No, madonna, io meglio un saccio da pecora e da leone. Fai 50 giorni da orso a chiotto, me ne stai in mezzo, non fai la figura in mezzo alla pecora. E nemmeno un leone, però, campione. Straordinario, straordinario. Allora, gufi, allodole, leone, pecora, orsetti, che questa è la filosofia migliore. Meraviglia. No? Come abbiamo sentito dalla clip di Massimo Troisi, ma anche dolce e salato. Dottor Aquilar, ritorniamo a casa sua con uno straordinario Massimo Troisi. E certo, ci ritorniamo con l'idea appunto della negoziazione interpersonale. I 50 giorni da orsacchiotto sono una negoziazione che in questo caso Massimo Troisi fa con il suo amico, ma che noi dobbiamo continuamente fare sia con noi stessi sia con le persone con cui siamo in un legame di relazione romantica. Evviva le negoziazioni interpersonali. Ricordiamo abbiamo chiesto: diteci se siete tipi dolci, diteci se siete tipi salati, e una volta che avete individuato il vostro profilo cercate di dirci se secondo voi in amore vale la teoria degli opposti si attraggono, oppure del chi si somiglia si piglia. Dottorato, se ci fosse la ricetta per l'amore felice, la seguiremo tutti. Sì, però le ricerche della psicologia sociale ci aiutano in questo. Oh, bene. Adesso potremo sentire quello che raccontano i nostri singoli ascoltatori, ma diciamo che normalmente chi si somiglia si piglia ben più di quanto gli opposti si attraggano. Gli opposti che si attraggono valgono per una serata romantica di fuoco, oppure per relazioni brevi anche se molto intense, ma le relazioni soddisfacenti di lunga durata sono più tra quelli che, essendo somiglianti, si pigliano e si godono la loro somiglianza in questa gioia di avere qualcuno che è come noi. Quindi, dottor Aquilar, salato con salato, dolce con dolce? Salato con salato e dolce con dolce, e anche con l'attenzione al contenimento dell'eccesso. Non dobbiamo essere né troppo dolci fino a diventare sdolcinati, né troppo salati fino a diventare guerrafondai. Quindi anche all'interno della somiglianza occorre un contenimento ed un equilibrio delle emozioni troppo forti, e occorre imparare ad esprimerle in un modo che sia rispettoso dell'altro e che ci ricordi sempre che l'altro è diverso da noi, ha emozioni diverse da noi anche se ci assomiglia tanto. Quindi noi sai cosa facciamo? Lo invitiamo a pranzo, ci facciamo invitare a cena, guardiamo anche quello cosa che mangia, sì, dottor Speciani, perché lei suggeriva in apertura che quello che mangiamo condiziona anche le nostre emozioni, certo, le nostre relazioni, e poi cerchiamo di scegliere la persona giusta. Dottor Aquilar, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Ma lei che tipo è, dolce o salato? Io sono prevalentemente dolce con picchi di salace ironia. Grazie dottor Aquilar, buonissima grazie giornata. A voi. Buona giornata, arrivederci. Scegli una porta. Una qualsiasi. Oh, mi aiuti, mi serve un indizio. Cosa devo fare adesso e come devo scegliere? E a proposito di scelte, dopo il GR parleremo di coppie che sono pronte a siglare accordi prematrimoniali scritti per evitare liti da social network e danni online, dalle vendette post-tradimento alle umiliazioni pubbliche. Si chiamano social media prenup e negli Stati Uniti sono già diffusi. In Italia naturalmente un accordo del genere non esiste ancora, ma l'idea ci ha stuzzicato, e insieme all'avvocato Gianetto Regassani, che è in linea con noi e che starà con noi sino al termine della trasmissione, parleremo di coppie su internet, di litigi su internet, ma naturalmente anche dei patti prematrimoniali, non esistono ancora in Italia, forse sarebbe bello, vi piacerebbero, e dei patti di convivenza. A tra poco. Cuore e denari. E non ci lasceremo. Non ci lasceremo mai, uno se lo augura, però insomma facile a dirsi, difficile a farsi, soprattutto se oltre ad un marito o una moglie avete anche un account su Facebook e Twitter. I social sono una piazza di incontro formidabile, ma anche di scontro. Se in America ci sono gli accordi prematrimoniali sui social, in Italia cosa succede? Cosa succederà? È una moda che potrebbe arrivare anche da noi? 800 24 0024. Vi piacerebbe? La gente vuole andare su internet per sapere cosa fanno gli amici. Serve un sito web che glielo permetta. Amici, foto, profili. Voglio prendere la vita sociale dell'università e metterla online. Il sito ha avuto 2200 contatti in 2 ore. Di più, ne ha avuti 22.000. Questa idea potrebbe valere milioni di dollari. Milioni? Un milione di dollari non conta. Sai cosa conta? Un miliardo. Mettere online la vita sociale. Questo sicuramente a Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha portato miliardi, ma di certo molti soldi li ha fatti circolare anche nelle cause di divorzio. Buongiorno all'avvocato Gianetto Regassani, presidente e fondatore dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Avvocato, buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno. Che dice? Beh, è una cosa americana, è una cosa che per noi è particolarmente lontana, perché i patti prematrimoniali nel nostro paese non sono affatto consentiti, sono anni che se ne discute. La mia associazione ha presentato un progetto alla Commissione Giustizia del Senato, ma non se ne è fatto più nulla, niente. È caduto il governo all'epoca, e pare che non se ne debba nemmeno parlare a certi livelli, perché il matrimonio non è considerato un contratto, per cui non si possono fare patti prematrimoniali, quindi come se fosse un vero e proprio contratto. Ora, capisco però l'esigenza degli americani, quella di cautelarsi. In effetti i patti prematrimoniali all'americana sono abbastanza liberi, si possono mettere tantissime clausole, anche le più bizzarre, per cui in caso di infedeltà bisogna pagare probabilmente molte volte una penale, nel caso di divorzio a chi va il gatto, a chi va il mobile comprato qualche anno prima da qualche parte. Insomma, si può praticamente mettere qualsiasi tipo di accordo, tra questi appunto anche il fatto di non stare su Facebook, di stare su Twitter, sui vari social network, che sono importantissimi, ma bisogna anche ammettere che sono terra di nessuno, a volte un'arma, uno strumento per offendere, per fare stalking, per mandare messaggi, per acchiappare, come si dice a Roma, ma si capisce ormai un termine nazionale, e quindi fondamentalmente un luogo dell'infedeltà coniugale o comunque dell'infedeltà in generale è sicuramente il social network. Il 30% dei divorzi in America e delle separazioni e divorzi in Europa dipende proprio da queste frequentazioni virtuali che poi diventano reali, si passa dal ciao fino all'inizio di una vera e propria relazione amorosa. Per cui può darsi che tra le clausole ci sia anche la paura che la moglie o il marito o la fidanzata o il fidanzato possano in qualche modo esporre le proprie fotografie, mettersi sul mercato. Quindi in pratica queste social media prenup ci dicono: bene, io e te stiamo insieme, oppure iniziamo questa relazione, ma tu mi metti per iscritto, mi prometti che se dovesse finire non metti quello che pensi di me su Facebook, non posti la tua ultima fidanzata o il tuo ultimo fidanzato. Funzionerebbe così, secondo gli americani? Gli americani fanno così? Sì, gli americani fanno così, possono fare così. Ovviamente se in Italia qualcuno entrasse in uno studio legale o in uno studio notarile per fare un simile tipo di contratto prematrimoniale, non risolverebbe alcun problema, appunto, perché poi una volta in tribunale il giudice dirà: questo contratto non è nulla, è carta straccia. Esatto. Però dalla sua esperienza, quanto internet ci mette lo zampino nelle cause di divorzio? E adesso torniamo in Italia. Ma tantissimo, tantissimo, perché innanzitutto c'è molta solitudine, c'è gente che vive praticamente per ore davanti a dentro un social network, per cui a furia di stare all'interno di questi social network inevitabilmente conosce persone, si conoscono persone, a volte si entra in empatia, ci si scambia il numero di telefono, poi c'è l'incontro. Insomma, sarebbe ipocrita dire che stare su Facebook sia soltanto un modo per comunicare messaggi di lavoro. Non è così. La gran parte delle persone sta lì per solitudine, e ripeto, c'è un utilizzo oggi quasi patologico di questi social network, a volte anche delinquenziale. Noi avvocati ci rendiamo conto quanto sia delicato stare su Facebook, soprattutto per i minori, anche per quello che è lo stalking attraverso Facebook, la ripetitività di messaggi, banner offensivi, anche da parte di persone che dovrebbero dare l'esempio, e che invece ci rendiamo conto che appunto Facebook è diventato terra di nessuno, e quindi figuriamoci per quanto riguarda l'infedeltà coniugale. Però, ed è una cosa che noi tratteremo in un grande convegno che faremo a dicembre a Roma, su appunto Facebook, Twitter, la loro grandezza, la loro importanza, ma anche le controindicazioni a questi grandi social network. Sì, io credo che ci siano controindicazioni, però mi viene da pensare, senza andare nel paleolitico, a un film bellissimo come Innamorarsi di Meryl Streep e Robert De Niro, che in realtà quindi in epoca pre-Facebook, in cui il treno diventa oggetto di stimolo ad un'infedeltà. Le librerie sono un oggetto nel tempo passato che diventavano occasione di scambio. Dicendo se deve capitare, se deve capitare, capita, credo, no? 800 24 0024, parliamo della rete. La rete crea relazione, nella rete si creano coppie, e per la rete le coppie scoppiano. Avvocato Gassani, ma è terra di nessuno, ma per una coppia che si sta separando e decide magari di magari uno dei due decide di postare le foto dei figli, questi comportamenti possono in qualche modo essere, tra virgolette, impugnati dall'avvocato di una delle due parti? Allora, insomma, noi parliamo di inferiorità tecnologicamente assistita, quindi giusto per ritornare al discorso di prima, sulla questione delle foto dei figli, beh, se c'è l'accordo di entrambi i genitori, nulla questio. Se non c'è, indubbiamente si può impugnare un atteggiamento di questo tipo anche in tribunale, perché le foto dei figli fondamentalmente devono essere gestite dai genitori. Ci sono delle controindicazioni nella pubblicazione delle foto dei figli, a volte l'ho fatto anch'io, ma d'accordo ovviamente con la mamma dei miei figli, però credo che bisogna, ecco, stare attenti a evitare i riferimenti verso i figli, cosa fanno, dove vanno, perché questo è molto importante. Purtroppo i pedofili stanno in rete, noi ce ne accorgiamo poi nei tribunali, spesso quando la procura fa delle indagini e arriva agli arresti ci rendiamo conto che uno degli ambienti più infetti è proprio il social network. Quindi sono statistiche giudiziarie, bisogna stare attenti. Quindi certo è possibile impugnare questa cosa, anche rivolgersi al tribunale per farla rimuovere eventualmente. Quali sono gli altri comportamenti imprudenti a cui fare attenzione? Ma innanzitutto, ecco, dare l'amicizia a nomi improbabili, a gente che non mette la foto, a gente che è entrata su Facebook il giorno prima. Si tratta di fake, i cosiddetti fake, che sono i falsi profili, fatto gravissimo. Cioè gente che è malata di queste cose, gente che fa solo questo, che a volte anche 30-40 fakes, e va poi entra nella vita degli altri in maniera assolutamente fraudolenta, carpisce segreti, li utilizza. Si tratta di persone psicopatiche, di persone malate che fanno solo questo, e anche la magistratura spesso è intervenuta, perché si tratta di falsi profili che spesso nascondono poi dei tentativi di crimine, quindi la pedofilia, carpire informazioni per fare rapine, furti in casa. Attenzione, non dite dove siete, cosa fate. Ho l'impressione che gli italiani non vedono l'ora di dire che cosa stanno facendo in quel momento, minuto per minuto. Ma lei ha mai passato un po' di tempo a un mercato? Perché, sì, sì, perché per carità. Nella comunicazione pubblica di io ho quasi 60 anni e sì, ricordo per mano alla mia nonna o alla mia mamma nei mercati rionali, però la gente fa gossip, comunicazione, è una, si racconta. È una sì, sì, ma per carità, quando si tratta di fare i vecchi e contestare la tecnologia, perché ci mancherebbe. Io anch'io sto su Facebook e ci sto molto tempo, quindi non voglio fare il moralista. Dico semplicemente che va utilizzato meglio. Cioè, se qualche volta succede qualche disgrazia, è perché la vita probabilmente in buona fede si è fidata, è stata carpita la sua fiducia, e bisogna stare attenti, soprattutto i ragazzi insomma, non è che possono essere chiusi in una stanza per 8-10 ore e nessuno controlla con chi stanno chattando. Secondo me, io adesso non faccio lo psicologo, perché non voglio fare neanche l'educatore, ma da avvocato, quindi sì, da operatore del diritto e uno che legge le carte processuali, si rende conto che molte volte andiamo a guardare le storie, il background di questi ragazzi, di queste donne violentate e stuprate, sono tutte persone che sono state avvicinate da falsi profili, molti bambini erano stati lasciati soli, si erano fidati di una richiesta di amicizia che sembrava provenire da un bambino ed era un uomo di 50 anni. Certo. Bisogna stare molto attenti. 800 24 00 24, parliamo di coppie, parliamo di rete, e continuano ad arrivare le telefonate anche per i nostri gusti, le nostre preferenze, dolce salato. Insieme all'avvocato Gassani, io vorrei uscire dalla rete, perché gli accordi prematrimoniali, lo sappiamo, insomma, lei è un promotore, in passato anche ha lavorato una proposta di legge, ma al momento tutto è fermo. Però possiamo parlare dei patti di convivenza, quello lì, insomma, questi ci sono. Sì, ci sono, siccome i conviventi sono fuori dal codice civile, c'è una possibilità per loro fare i patti di convivenza, che possono essere fatti dal notaio o dall'avvocato. Questi patti di convivenza hanno una loro efficacia giuridica, una loro validità, per cui quando la coppia scoppia, si può stabilire prima che cosa succederà in termini anche di un assegno, un contributo al mantenimento, che fine farà la casa, chi dovrà pagare il mutuo. Insomma, paradossalmente i conviventi non hanno leggi che li tutelano, però hanno la possibilità di regolamentare la loro vita, cosa che non possono fare. E se poi mi sposo, cosa succede? È finita. Cioè il patto non ha più valore. Perché ve la ridete? No, ma la ridete è una risata amara. Ah, perché bravo. Siamo l'unico paese dell'Occidente che non ci consente di regolamentare la nostra vita, è lo Stato che impone in maniera paternalistica tutto ciò che ci riguarda. Elena, buongiorno da Firenze, e poi Domenico da Roma. Buongiorno Elena. Buongiorno. Buongiorno. No, io sentivo... Sentiva che questi due se la sghignazzavano. L'avvocato Gassani è un avvocato, ma io vedevo il dottor Speciani, che quindi diceva, quindi io non mi sposo, ma ormai lui è già sposato. Elena. Da lungi, ieri ha fatto allora, 29 anni. 29, mamma mia. Dica. Sinceramente sono una fruitrice molto, molto, molto assidua dei social network e di tutto quello che la rete offre come possibilità sia di relazionarsi con le persone già conosciute, tipo Facebook, o anche di trovare delle amicizie in rete, di creare dei rapporti in rete. Quindi diciamo che ne so abbastanza, circa una quindicina d'anni che vivo sulla rete. E mi sembra che si tenda a demonizzarla un po' troppo, nel senso che comunque ormai fa parte semplicemente di un modo di conoscere le persone, secondo me è non tanto diverso dall'entrare in un bar e offrire da bere a qualcuno. Elena, infatti il dottor Speciani parlava del mercato, ma io non penso che ci sia stata l'intenzione, adesso faccio l'avvocato dell'avvocato, da parte dell'avvocato Gassani, di demonizzare, insomma di fare terrorismo sulla rete, ma di dire attenzione, come tutte le cose che facciamo e che incontriamo, che utilizziamo, ci sono delle attenzioni, delle precauzioni da seguire. Elena, lei ha trovato l'amore in rete? Assolutamente sì. Ah, infatti io 14 anni fa ho incontrato in rete, in una chat che ora non esiste nemmeno più, quello che è da 14 anni il mio compagno con cui convivo. E ha fatto i patti di convivenza lei? Assolutamente no. Ecco, ma perché Elena? Perché Elena? Perché semplicemente la vita è fatta di tante cose, di sicurezze ma anche di insicurezze. È bello viverla così. I patti pre e qualsiasi cosa tolgono, secondo me, un po' di poesia, che è quello poi della sorpresa giorno giorno. Insomma, non sempre sono sorprese belle, purtroppo, nella vita, però dobbiamo riuscire a essere capaci di metterci un po' in gioco, sempre naturalmente non staccando del tutto il cervello. Spendo una parola anche a favore dell'oblio, che quando scrivi tutto poi ti ricordi tutto, invece nella coppia a volte il fatto di dimenticare qualche piccola cosa è utile, giova alla prosecuzione della relazione. In realtà il patto di convivenza, avvocato Gassani, dovrebbe tutelare l'altro, no? Sì, perché in effetti questo è un paese strano, è un paese in cui i conviventi non hanno alcun diritto, cioè puoi vivere 30 anni con una persona che ti ha dato la vita, ti ha messo al mondo figli o tu hai dato la vita a lei, ebbene da un giorno all'altro puoi metterla per strada. Questa cosa è orrenda in un paese normale. Tanti altri paesi d'Europa ormai la questione è stata risolta, per cui se non ti sposi nel nostro paese non hai tutela. Tutto questo non è consentito, non dovrebbe essere consentito in un paese come il nostro, che sta in Europa, perché ormai negli ultimi anni le coppie di fatto stanno aumentando in dismisura, soprattutto da Roma in su, e quindi non possiamo dimenticare che milioni di italiani hanno fatto questa scelta e meritano tutela. Quindi credo che non possiamo creare un doppione nel matrimonio, giammai, ma un minimo di tutela, soprattutto per quelle coppie che da anni stanno insieme, che hanno creato un sodalizio familiare sovrapponibile a quello degli sposati e quindi hanno un mutuo da pagare, figli da portare a scuola. Beh, una tutela anche economica deve esistere per queste persone. Si possono i patti di convivenza fare o dal notaio o dall'avvocato. Per la sua esperienza, qual è il profilo di coppia che stipula questo patto? Ma non molti lo fanno, un po' come la radioascoltatrice di prima, la pensano un po' così gli italiani, cioè viviamo la giornata, abbiamo fatto questa scelta. Non tutti conoscono i patti di convivenza, ma di solito si tratta di persone dai 30 ai 40 anni, molto giovani, molto informati, che hanno preso una decisione importante: vivere insieme. Non si tratta quindi di coppie che vivono di passione del momento, hanno pianificato la loro vita e quindi vanno dal notaio o dall'avvocato a fare questi patti di convivenza. Non vogliono sposarsi. Non vogliono sposarsi, ma il patto non è espressione non mi fido, ma non mi fido, e quindi con questo patto ti faccio firmare nero su bianco e non mi freghi. Ma paradossalmente, ecco, con i patti di convivenza così, però vengono percepiti così. Sì, ma i patti di convivenza molte volte sono ancora più vincolanti del matrimonio stesso. Se uno li va a guardare certe volte, beh, insomma, non ti sei voluto sposare, fare, però hai stabilito alcune clausole che sarebbero sono sicuramente più pesanti. Senta, avvocato, del peggiore divorzio, noi due quindi... siamo entrambe sposati, ma se io e lei convivessimo, ci innamorassimo, convivessimo, io, lei stipulerebbe con me un patto di convivenza o farebbe finta di niente? Ma io convivo more uxorio, e credo, io non ho fatto patti di convivenza. Però ho saputo regolarmi nella mia vita come devo fare. Credo che quando nascono i figli, quando ci sono appunto famiglie vere e proprie, beh, credo che bisogna sapersi regolare da persone serie. Perché altrimenti diventa veramente poi anche la convivenza un rischio, una situazione molto pericolosa. Avvocato, le raccolgo un bisogno che prendo da medico, dove spesso questa cosa è espressa. Le persone si accorgono di un problema quando ad esempio devono andare in ospedale, uno dei due conviventi sta male o dei problemi di salute molto seri, e purtroppo in ambito ospedaliero il convivente è considerato meno di zero. Col patto di convivenza qualcosa di questo genere può cambiare o no? No, neanche col patto di convivenza. No, perché il patto di convivenza riguarda i rapporti tra le parti, non tra le parti e lo Stato. Torneremo su questo tema che ha lanciato il dottor Speciani, che è sicuramente molto interessante. Intanto grazie all'avvocato Gassani. Grazie a voi. Buongiorno e grazie al dottor Speciani. Grazie e arrivederci. E noi ci sentiamo lunedì. Grazie, buona giornata e buon weekend a chi ci ha ascoltato. Cuore e denari.